verso quel posto che cerco. Tanto qua si proclama già un inferno già, ma con il fuoco sempre spento. Calore non lo trovi, Marco, se cerchi in eterno. E non ci sono gli algoritmi, non c'è nessuna legge che governi la ricerca di equilibri. Ma è la mia vita, la mia sola insegnante. A campare non si impara solamente sopra i libri. E tutti quanti sono in grado di esistere, ma solo in pochi si dilettano nell'arte di resistere. E ce ne vuole, cazzo, quanto ce ne vuole a sapersi emozionare ancora dove questa vita muore. È troppa rabbia ancora sento, ho sentenziato in più di un'occasione, cazzo non ci sto più dentro. Grazie a questa penna la disperdo, questa è una boccata d'aria pura che mi fa ritrovare sempre. Grazie a chi non mi ha lasciato solo, grazie a tutti quelli che mi hanno lasciato un vuoto. Grazie a chi mi insegna che la vita prima scende dopo sale, a chi c'era sia del bene che del male. Grazie a chi mi ha dato sempre meglio, a quelli che mi hanno dato senza chiedere mai indietro. Grazie a tutti quelli che mi hanno fatto soffocare, grazie del bene e grazie del male. Io l'inferno l'ho già visto, sta nelle giornate storte dove scomodi anche Cristo. E non c'è nulla che mi può sedare, ho imparato dal dolore come stampo comportamentale. La gente parla ma dovrebbe stare zitta, amplifica cazzate per riempire la sua vita. Con la bocca chiusa tiro dritto, il più bel silenzio sai, lo sai. Non fumo iscritto, non fumo iscritto, manco come fare a stare calmo quando senti davvero che stai per affogare. Se non ci provi qua il destino te lo infangano, i primi infami che se muori poi ti piangono. Davvero grazie, non mi bastano parole a chi non mi ha lasciato divorare dalle pare. Per chi ancora vale in questo mondo poco sano, mi porto nel mio cuore sulle dita di una mano. Grazie a chi non mi ha lasciato solo, grazie a tutti quelli che mi hanno lasciato un vuoto. Grazie a chi mi insegna che la vita prima scende dopo sale, a chi c'era sia nel bene che nel male. Grazie a chi mi ha dato sempre meglio, a quelli che mi hanno dato senza chiedere mai indietro. Grazie a tutti quelli che mi hanno fatto soffocare, grazie del bene.